Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. Il sesso è il grande mistero della vita che muove il mondo e pornografia ed erotismo sono solo due degli infiniti aspetti che lo riguardano. Ma se la pornografia è sesso disumanizzato, meccanico, perfino violento, l'erotismo è invece qualcosa di più complesso, profondo, evocativo, interessante. Così è descritto nelle parole di Carmelo Bene. Ma l'erotismo è un'eccedenza, è un dar di fuori sempre. È un dimenarsi, romantico o meno che sia. Oggi a Destini Incrociati raccontiamo un mondo tanto proibito quanto magico, che prende vita grazie a un imprenditore illuminato e fantasioso. Il suo nome è Alain Bernardin. Alain Bernardin. Siamo nel 1951 a Parigi e Alain ha 35 anni. Ha appena comprato un palazzo in Avenue Georges V, dietro gli Champs-Élysées. La sua idea è quella di farci un teatro e vuole curare tutto personalmente. Nello studio di casa, con davanti le planimetrie e in mano una matita, lavora alla struttura. Abbozza un progetto e straccia il foglio, poi un altro. È ambizioso, non si accontenta. Deve inventarsi qualcosa di nuovo, qualcosa di esplosivo, che catturi il pubblico. Perché nella Ville Lumière la concorrenza è infinita e i locali di culto sono già il centro della vita notturna. Primo fra tutti, il mitico Moulin Rouge. Prima c'è desiderio. Poi, passione! Il Moulin Rouge si trova nel cuore di Pigalle, il quartiere a luci rosse di Parigi, oggi molto turistico, un tempo zona di bordelli e trasgressione. Viene inaugurato il 6 ottobre 1889 da Charles Zidler e diventa immediatamente un cabaret di successo. E al Moulin Rouge, sulle note di Offenbach, le ballerine con le gonne ampie che mostrano le calze autoreggenti inventano il can-can. Seduto in prima fila c'è sempre il pittore Henri de Toulouse-Lautrec, piccolo, affetto da nanismo, geniale e da tutti conosciuto come l'anima di Montmartre, che immortala nei suoi dipinti. Pochi anni dopo, negli anni 30, lo stesso posto in prima fila viene occupato da Alain Bernardin, un ragazzino di buona famiglia abituato a un'educazione rigida e puritana, che guardando il Moulin Rouge sogna la trasgressione. Uscivo da scuola il pomeriggio e correvo al Moulin Rouge. Mi nascondevo dietro all'angolo della strada e guardavo le ballerine che arrivavano. Erano bellissime. Io ero piccolo e cercavo di intravedere un po' della loro pelle scoperta. Mi innamoravo di una diversa ogni giorno. L'attrazione che Alain ha per quelle donne perfette non è morbosa e nemmeno semplice eccitazione. Il suo approccio nei confronti delle forme femminili è di apprezzamento del bello. E lo sguardo sui corpi umani è lo stesso che lo spinge a diventare antiquario e collezionista d'arte. Alain cresce in una Parigi viva, creativa, stimolante. La Parigi che ancora non immagina gli anni della terribile guerra mondiale e ha voglia di vivere il presente con stupore e allegria. Il jazz, improvvisato, non lineare, vivo, vibrante, esprime perfettamente questo spirito. E Boris Vian, scrittore, trombettista e cantautore, ne è il simbolo. Je suis snob. C'est vraiment le seul défaut que je gobe. Vian mette in scena la voglia di andare controcorrente al Tabù, un club buio e fumoso nel cuore del quartiere latino. Le sue canzoni sono anticonformiste, provocatorie. Si fa beffa dei perbenisti e guarda all'America, alla cultura pop. Alain va al Tabù ogni sera e aspetta Vian dopo lo spettacolo. Le notti in giro per la città sono interminabili. I due parlano di musica, letteratura, donne e vita. Per esempio, della splendida Juliette Gréco, attrice e cantante che diventa l'immagine stessa della Parigi esistenzialista e bohémienne, che di Vian si innamora artisticamente, diventando così una grande interprete dei suoi pezzi. Ci sono delle vecchie canzoni di Vian che io porterò sempre dentro di me. come un preziosissimo tesoro. Comme des trésors. C'est mignon bicep, tes ongles d'émaille, ta cuisse de nymphe et ton pied léger. Si tu crois que ça va, ça va, que ça va, que ça va durer toujours ce que tu te gourres. Fillette, fillette, ce que tu te vivere nella Parigi degli anni 40, romantica, con sottofondo jazz, per Alain Bernardin è magico. E Vian, che nella prefazione a La schiuma dei giorni sintetizza un modo di vivere, diventa un modello a cui ispirarsi. Sono solo due le cose che contano. L'amore, in tutte le sue forme, beh, con belle ragazze, e la musica di New Orleans e Duke Ellington. Tutto il resto è da buttar via, perché è brutto. Bernardin considera quasi provinciale la cultura europea, mentre è incuriosito da tutto ciò che arriva dall'America, come i film western, ad esempio. Passa le serate con gli amici al cinema, le atmosfere da saloon e le leggendarie storie dei cowboy lo conquistano totalmente. In particolare, è attratto da quelle donne un po' discinte che servono whisky agli eroi sui lunghi tavoli di legno. Sono belle, sfrontate, senza pudori e, nonostante le apparenze, molto decise e indipendenti. Sono loro che decidono cosa dare ai clienti, sono loro che hanno davvero in pugno la situazione. Tutto ciò che arriva dall'America ad Alain sembra nuovo e rivoluzionario. Un cugino che vive oltre oceano ogni mese gli manda le riviste più in voga del momento, che ancora non arrivano in Europa, e che in copertina hanno sempre affascinanti pin-up come la famosissima Betty Page, antesignana del mondo fetish, come la descrive un giornalista americano. Era innegabilmente una delle più famose pin-up americane. Ha lavorato come modella solo per pochi anni, ma in quegli anni è riuscita ad apparire in più riviste di Marilyn Monroe e Cindy Crawford insieme. Per Alain queste donne sono il massimo. Bellissime e perfette nelle forme, la più bella espressione erotica che abbia mai visto. Fino al giorno in cui davanti a lui si prospetta una scena che lo ipnotizza. Alain sta camminando per Pigalle, il quartiere a luci rosse. È nervoso, ha appena litigato con la sua fidanzata per l'ennesima volta e ha bisogno di prendere aria. Incontra un amico, non lo vede dai banchi di scuola. Lo invita a bere un caffè per chiacchierare un po', ma lui non vuole parlare dei vecchi tempi. Gli dice solo che attraverso il passaparola ha scoperto che in uno scantinato di un vicolo sta per iniziare lo spettacolo più eccitante e trasgressivo che sia mai stato visto. Alain, incuriosito, decide di seguirlo. Lo spettacolo arriva direttamente dall'America e si chiama Burlesque. Ecco come ne parla Dita Von Teese, la donna che l'ha riportato in voga nel XXI secolo e che ora ne è la regina. La prima volta che ho sentito parlare del burlesque ne sono stata immediatamente attratta. È una forma di intrattenimento classico in America. Qui in Europa la gente pensa che sia scandaloso, qualcosa di proibito, ma in America è molto diffuso ovunque. È sexy, ma molto elegante, raffinato. Alain, bicchiere di vino in mano, è in fondo alla sala, ma lo spazio è ridotto e il palco comunque è vicinissimo. C'è praticamente buio e si respira un'aria viziata, un misto tra sudore umano, umidità e fumo. Di colpo si accendono le luci. Una donna procace, fasciata in un abito attillato, improvvisa un siparietto basato su doppi sensi mentre fa un numero da equilibrista. Il mix di fantasia, erotismo e divertimento è esplosivo. Alain torna a casa e lascia la fidanzata. Perché accontentarsi di una donna normale quando ha appena visto la perfezione? D'altra parte, è sempre stato maniacale, al limite del patologico. Alle sue donne ha sempre chiesto di essere ineccepibili dal punto di vista estetico. Capelli perfetti, unghie perfette, trucco perfetto, fisico perfetto. Quando si esce, è anche in casa. Per tutte le sue donne, un'ansia da prestazione, quasi un tormento psicologico. Ma Alain non può farci niente. È nella sua natura essere incontentabile e eternamente insoddisfatto. Vedere un rossetto sbavato o unghie smangiate mi ha sempre disturbato profondamente. Sono un amante dell'ordine, del bello. Non sopporto la sciatteria, soprattutto nelle donne. Una donna deve essere divina. Lipstick for the men, oh, oh, oh, Siamo all'inizio degli anni 50 a Parigi e Alain Bernardin subisce il fascino di tutto quello che arriva dall'America: donne procaci e disinibite, libertà di espressione, costumi meno puritani della vecchia Europa. Ha comprato un grande spazio dietro agli Champs-Élysées, nel cuore della zona più elegante di Parigi. Vuole farne un teatro che sia innovativo e particolare, che possa attrarre gente da tutto il mondo. È in casa, al suo tavolo, sta studiando la pianta del locale, ma non è concentrato, continua a distrarsi guardando fuori dalla finestra. Gira la testa per seguire un cappello che vola via dalla testa di un uomo. Ci sono giorni in cui a Parigi il vento è così forte che fa vibrare i vetri. Il suo sguardo dal cappello sul marciapiede finisce su una donna che, appoggiata a un muretto, si sta allacciando una scarpa. Su di lei cade una luce intensa che la avvolge. Sembra quasi che la vesta. È alta, sicura, femminile, provocante, ma contemporaneamente raffinatissima. Di un'eleganza che istintivamente Alain collega a quella della ballerina che in un fumoso scantinato aveva visto esibirsi in un conturbante show burlesque molti anni prima. Adesso, nella sua testa, si affollano immagini disordinate ma esplosive. Donne meravigliose, dalle forme perfette e portamento regale, che danzano in un misto di fascino e ironia. Gag da slapstick comedy, cadute, scherzi, musichette da accompagnamento e luci potenti che animano tutto quello che toccano. Bernardin improvvisamente sente che ha trovato l'idea per il suo teatro. Come un dadaista all'opera, mescola tutto insieme: immagini dal passato, idee che gli suggerisce il presente, intuizioni senza tempo. Sta per nascere il mitico Crazy Horse di Parigi. Il Crazy Horse apre per la prima volta il 19 maggio 1951 in un tripudio di velluto rosso e diventa immediatamente il luogo per antonomasia del peccato chic, della seduzione raffinata, dell'erotismo di buon gusto. Bernardin è in prima fila ogni sera a gustarsi le ragazze e il suo successo. I parigini più raffinati iniziano a frequentare il locale assiduamente e da ogni parte del mondo si comincia a prendere il Crazy Horse come un punto di riferimento, una tappa irrinunciabile della capitale francese. E tutti vogliono in qualche modo far parte di quel mondo. Salvador Dalí disegna per Bernardin il celeberrimo divano rosso a forma di bocca e i disegnatori satirici Georges Pinchard e Georges Wolinski creano, ispirandosi alle ragazze dello show, il personaggio di Paulette, giovane e ricchissima ereditiera. E lo stesso Wolinski a raccontarlo. Per noi disegnatori c'erano dei tabù negli anni 50 e noi dal Crazy Horse abbiamo imparato cos'è la libertà d'espressione. Se il Moulin Rouge è cancan e nostalgia, il Lido piume e paillette, il Crazy Horse mette in scena il nudo internazionale. Bernardin cura tutto personalmente, mettendo al centro le ballerine. È un perfezionista e vuole farle risaltare al meglio. Usa un trucco: abbassare il soffitto del palco per fare in modo che le ragazze sembrino più alte. I balletti vengono affidati ai migliori coreografi che ci sono in circolazione, come l'artista americana Loy Faller, maestra dell'étoile Isadora Duncan, madre della danza moderna. È proprio dai suoi lavori che Bernardin trae ispirazione per un'idea geniale e rivoluzionaria. Spoglia le ragazze e le riveste con la luce. La ricetta di Bernardin si regge su un principio: tutto deve essere di classe. All'ingresso ci sono sempre due portieri in tenuta da polizia canadese a cavallo. Dentro, sarte e costumiste studiano abiti contemporaneamente chic e sexy, mai volgari, sempre scintillanti. Le ragazze scelte da lui personalmente sono bellissime. Recitano il rituale della seduzione e incarnano il desiderio impossibile, proprio perché non sono comprabili. I canoni estetici sono rigidi e non cambiano nel corso degli anni. Altezza tra il 1,68 m e il 1,72 m. 27 cm la distanza tra i capezzoli. 32 cm quella dall'ombelico al pube, che deve essere un triangolo equilatero di 12 cm, rigorosamente nero, anche in caso di capigliatura bionda o rossa. È la regola, non si sgarra di un millimetro. Anche per questo entrare al Crazy Horse vuol dire puntare in alto. Non basta essere belle, bisogna essere artiste complete e avere un carisma unico. Carmen Electra, showgirl in cui in anni recenti è stata concessa una fugace apparizione, racconta così la paura di far parte dello show. Non si tratta soltanto di salire sul palco e mostrare dei centimetri di pelle. Tutte le ragazze sono preparate, allenate, sono bravissime ballerine classiche. All'entrata del locale, ogni sera, uomini di ogni età affollano la biglietteria. Ma non solo uomini, perché lo spettacolo è così entusiasmante da diventare ogni volta un evento diverso che incuriosisce e attrae anche le donne. Bernardin, taccuino alla mano, segna i dati di tutte le ballerine, ma scriverli è solo uno scrupolo. In realtà si ricorda a memoria nome, volto e misure, e soprattutto il fondoschiena, che ritiene il punto magico per giudicare il fascino di una donna. Il suo atteggiamento nei confronti delle ragazze è una via di mezzo tra quello del Pigmalione e quello del padre. Per contratto, infatti, parte dello stipendio viene versato dal Crazy Horse in un fondo vincolato che impedisce alle ragazze di sperperare i risparmi e consente loro di prepararsi un futuro sicuro. Ma tutto questo è anche un gioco. E un gioco sono i nomi che Bernardin sceglie per le ballerine, a cominciare da Miss Fortunia, che nel 52 si esibisce nel numero della Pulce creato da Max Revolt, per arrivare al duo Rita Renoir-Rita Cadillac, fino a Victoria Nankin nel primo esperimento di grafica luminosa proiettata sulla pelle nuda del 1960. Il Crazy Horse è il locale più in voga del momento, e anche la moda lo usa. È qui che Paco Rabanne fa esordire i suoi primi modelli metallici, come ricorda lui stesso. Mi sono ben guardato dalle visioni futuristiche. Non volevo predire il futuro, volevo semplicemente far vivere un presente diverso, eccitante, come era quello del Crazy Horse. Per artisti e star di tutto il mondo, a volte andare a Parigi vuol dire andare al Crazy Horse. Prima Dalí e Duchamp, per passare a De Sica e Fellini, poi Kennedy e Onassis, e ancora Alain Delon e David Bowie. Il bel mondo nel corso degli anni rivendica con orgoglio la presenza a spettacoli erotici di quella portata. Alain Bernardin parla con tutti, intrattiene il suo pubblico, dicendo la sua su qualsiasi cosa, dalla lunghezza delle gonne alla durata dei numeri. All'inizio è entusiasta, ce l'ha fatta, ha realizzato il suo sogno, ha conquistato Parigi con un'idea di erotismo artistico del tutto rivoluzionario. Le sue donne sono creature divine, sogni irraggiungibili. Ma piano piano comincia ad annoiarsi. Le serate gli sembrano tutte uguali. E così le ragazze. Sempre più spesso è nervoso, autoritario, le insulta. È incontentabile. Tutto questo successo non gli basta più. Vuole sconvolgere, strabiliare. E la sua ricerca della perfezione è senza fine. A Destini Incrociati siamo a Parigi, a cavallo tra gli anni 50 e gli anni 60. La città è viva, stimolante, e un collezionista d'arte nonché imprenditore, Alain Bernardin, ha appena messo in piedi il locale che in breve è diventato il luogo di culto dell'erotismo chic, il mitico Crazy Horse. Ogni sera, ballerine stupende, dalle proporzioni perfette, dalle misure rigorose, mettono in scena spettacoli in cui luci mirabolanti e costumi da mille e una notte creano un effetto indimenticabile. I numeri sono un misto tra striptease raffinato e humor, in pieno stile burlesque, scoperto e importato da Bernardin dall'America. D'altra parte, in America, il senso del pudore non ha dei limiti così rigidi come in Europa. La libertà espressiva è maggiore, come dimostrano le numerose testate erotiche che ritraggono donne seminude, riviste un po' tutte uguali, fino all'arrivo di Playboy nel 1953. A parlarne è Hugh Hefner, il suo fondatore. Noi avevamo deciso di fare una rivista come le altre. Volevamo usare una rivista per dare vita a una rivoluzione sessuale. Non ci interessavano solo i nudi, ma i nudi abbinati all'arte, alle inchieste, alla letteratura. Playboy ha cambiato il mondo, ha liberalizzato il sesso. Playboy ha cambiato tutto. E se in America si fa strada una nuova idea della donna e il cambiamento dei costumi passa dai corpi femminili, in Italia la situazione negli anni 50 è ben diversa. Un'Italia dove la televisione è nata da poco e ancora non ci si è abituati al mondo che entra con tanta facilità nelle case. Lo racconta Alessandra Comazzi, critica televisiva. La prima fase della televisione italiana a viverla doveva essere divertente per quanto riguarda questa idiosincrasia patente nei confronti di tutto quello che poteva coinvolgere anche lontanamente il sesso. L'Italia ha ancora molta strada da fare. Se Bernardin al suo Crazy Horse spoglia la donna, l'Italia cerca in tutti i modi di rivestirla. C'erano le gemelle Kessler che dovevano ballare con la spessa calzamaglia di lana, le ballerine con i mutandoni. C'è un episodio che diventa il simbolo del moralismo del periodo. Coinvolge Oscar Luigi Scalfaro, appena eletto in Parlamento e rigidissimo per quanto riguarda i costumi, e solleva un polverone. Su tutti i giornali diventa il caso Prendisole. Scalfaro è a Roma, in Via della Vite, trattoria da Chiarina. Sta pranzando con i colleghi del partito San Pietro e Tito Manlio. È una bella giornata, fa molto caldo, e per rinfrescarsi i tre stanno bevendo del vinello della casa, fresco e leggero. Mentre si sta versando un bicchiere, Scalfaro alza la testa e vede entrare una donna trafelata e molto accaldata. La donna, Edith Mingoni, in Toussaint, si toglie il bollerino che ha sulle spalle e lo appoggia su una sedia. Poi prende un ventaglio dalla borsa e inizia a farsi aria. Scalfaro si alza in piedi di scatto, rovescia il bicchiere di San Pietro, attraversa la sala per gridare alla signora: «È uno schifo, una cosa indegna e abominevole. Lei manca di rispetto al locale e alle persone presenti. Se è vestita in quel modo, è una donna disonesta. Le ordino di rimettere il bollerino». Dopodiché chiama due poliziotti e con loro rientra nel locale. La vicenda finisce in questura e diventa la metafora della chiusura mentale del momento. Signori, il nostro è un compito delicato. La televisione entra nelle case, entra nelle famiglie. Quindi noi dobbiamo renderci conto anche quale effetto potrebbe fare sul pubblico uno spettacolo mal controllato. Perfetto. E lo credo bene. Oddico, vogliamo dare questa controllata? E controlliamo. Permesso? Dunque, e sono una, e sono due, e sono tre, e sono quattro, e sono quattro. Sono contento, giovanotto. Sì, le ragazze sono vestite. Andiamo in onda. Hello, boys. Traversando tutto l'Illinois. Valicando il Tennessee, senza scalo fino a qui. È arrivato il Dadaun. Negli anni 60 il Crazy Horse di Alain Bernardin è sulla cresta dell'onda. I numeri sono studiati sempre meglio e le ballerine bellissime li eseguono perfettamente. Forse anche troppo. Bernardin, che ha sempre precorso i tempi, capisce che è ora di cambiare qualcosa. I canoni estetici per far parte del cast del Crazy Horse vanno mantenuti intatti, è una regola assunta a tradizione che rimane con gli anni. Ma ci vuole qualcosa di nuovo, uno spirito diverso, una provocazione che non sia sempre la stessa. E così Bernardin inizia una caccia serrata per trovare la nuova regina delle notti parigine. Percorre l'Europa in lungo e in largo, provina donne meravigliose ed elegantissime, ma non ne sceglie nessuna. Finché un giorno, in Italia, quell'Italia bacchettona, ha una visione. Torino, 1968. Le contestazioni studentesche partite da Parigi stanno arrivando anche in Italia. Bernardin è seduto al tavolo con un amico, gli sta raccontando una nuova idea per lo show, che consiste nel numero di una ragazza che si perde dentro a un vulcano. Ma non è facile trovare questa ragazza. Deve essere contemporaneamente altezzosa, ma anche un po' scugnizza. All'improvviso si sente una risata fragorosa. È un gruppo di amiche che stanno entrando nel locale, chiacchierano rumorosamente. Hanno sotto braccio striscioni e bandiere, sono appena state a una manifestazione. Non tutte fanno l'università, ma i giovani sono tutti stretti, uniti nello spirito della rivendicazione dei diritti di un'intera generazione. Bernardin, che ama il silenzio e l'ordine, è infastidito dagli schiamazzi. Si gira di scatto per pregarle di farle più piano, ma il suo sguardo viene catturato da una delle ragazze. È spettinata e non particolarmente curata. Dopo anni dichiarerà: «Appena l'ho vista, ho colto in lei l'anima della commediante, lo spirito ribelle, e poi aveva quel modo così unico di muoversi, al tempo stesso felino, selvaggio ed energico». La ragazza si accorge che Bernardin la sta fissando. Si chiama Patrizia Novarini, ha 22 anni e tutta la spavalderia di quell'età. Si avvicina al tavolo con aria di sfida. Lui non le lascia il tempo di parlare e le chiede: «Hai mai visto Parigi?» Lei che ha studiato a Milano dalle suore e cova la voglia di scappare e conoscere il mondo da sempre, sente dentro di sé che quella può essere l'occasione di una vita e risponde «No». «Vieni con me, ho un volo prenotato per la settimana prossima. Se poi ti piace, resti», le dice lui. Patrizia non ci pensa più un minuto. Se lui è impetuoso, lei lo è ancora di più. «Che mi ha ingaggiato direttamente in Torino, Bernardino». Patrizia non sa neanche dove sta andando, né tantomeno ha sentito parlare di Bernardin e del suo locale, ma tanta è la voglia di partire che non si fa troppe domande. Per esempio, non sapevo che cos'era il Crazy Horse. Così, pochi giorni dopo, Patrizia è pronta a partire. Papà fa il giornalista a Milano, la mamma è una ballerina. Lei ha preso da entrambi. Da uno la battuta pronta, l'ironia, il carisma. Dall'altra la sinuosità, l'eleganza, un modo di muoversi particolare. L'appuntamento con Bernardin è all'ingresso dell'aeroporto. Appena dentro c'è il banco dei voli internazionali. Non ne ha presi molti finora, Patrizia. La gente, il movimento, Bernardin, la partenza improvvisa, tutto succede così in fretta che non sa nemmeno che giorno è. Nel 1968, esattamente il 15 aprile. No, il 25 aprile, adesso che mi ricordo. Il 25 aprile del 2000. No, forse ho... giù di lì, ecco. Patrizia è impulsiva, intravede una grande opportunità per lei, anche se ancora non sa per cosa. E di Bernardin, burbero dal cuore tenero, istintivamente sente di potersi fidare. Lui non è viscido, ha un atteggiamento quasi paterno, la protegge, la coccola. Arrivati a Parigi, l'accoglie a casa sua come una figlia. Lei si mette a suo agio e non ha difficoltà a imparare il francese perché è abituata a parlare con tutti. E quando si ha voglia di buttarsi, si impara in fretta. Vale per il francese e vale per la nuova vita al Crazy Horse. Il primo impatto con il locale per Patrizia è sconvolgente. Le ballerine sono tutte meravigliose e perfette e lei non si sente all'altezza, si sente in disordine, diversa. Lo ricorda lei stessa. Io quando sono arrivata al Crazy Horse avevo quell'aspetto lì, no? Di una pupa un po' incontrollabile. Guardando le ragazze, individua immediatamente cosa si aspetta Bernardin, quali sono i suoi canoni estetici, quali sono i numeri che incontrano il suo gusto. Nel 68 erano i primi corpi in movimento, lui adorava le donne un pochino leggere, piccoli semi, un po' delle Barbie, no? dei soldatini, ecco. Patrizia è impaurita, ma Bernardin sa perfettamente cosa sta facendo. Il suo intuito non l'ha mai tradito. La mette sul palco, le dice di cominciare a ballare. Patrizia accenna un passo, ma è imbarazzata. «Più sexy!» le urla lui. «Devi sedurre, non annoiare!» Le ragazze sbirciano il provino da dietro le quinte. Ci sono passate anche loro, ma ora che tutti le considerano divinità, sembrano non ricordarsene. Prendono in giro Patrizia, ma è solo una forma di invidia, perché gli occhi di Bernardin, nel guardarla, non hanno mai brillato così tanto. Patrizia si scioglie, inizia a muoversi in modo più conturbante, l'effetto è strepitoso. Bernardin, rigidissimo e intransigente, maniacale al punto da tenere sotto controllo tutto, dal peso delle ragazze alla toilette, addirittura si alza in piedi e applaude. Qualche modifica ai capelli, un nuovo nome, qualche indicazione e Patrizia sarà pronta per il Crazy Horse. Lei ancora non lo sa, ma sta per diventare una stella. A Destini Incrociati stiamo raccontando l'incontro tra Alain Bernardin, che con il suo Crazy Horse ha sconvolto i sogni degli uomini di tutto il mondo, e Patrizia Novarini, giovane torinese che viene ingaggiata da Bernardin in un ristorante ed entra nell'ambitissimo cast del magico locale parigino. Patrizia è perfetta per il ruolo di scugnizza che Bernardin le assegna. Ribelle ma elegante, provocante e bellissima, ma mai volgare. Non resta che cambiarle il nome in uno più surreale ed evocativo, come vuole la tradizione del Crazy Horse. Mi chiamo Rosa Fumetto. Scusami, ma mi viene in mente quando ero al Crazy Horse che dicevo giustamente mi chiamo Rosa Fumetto. Bernardin è un mago nel trovare nomi stravaganti. Tricia Boogaloo, Brenda Rainbow, Vodka Samovar. Le ragazze, quando arrivano al Crazy Horse, cambiano identità. E Patrizia si trasforma in Rosa Fumetto. Rosa Fumetto. Per via delle sue curve, che viste di profilo ricordano a Bernardin appunto un fumetto. Ed è proprio pensando a un fumetto che Bernardin trova la chiave di volta per rendere questa ragazza davvero unica, per farla diventare un'icona. Decide che Rosa Fumetto dovrà avere il caschetto nero di Valentina, la famosissima eroina disegnata da Guido Crepax nel 1965, che da un critico viene così descritta. Sicuramente Valentina è il simbolo, è stata il simbolo della emancipazione della donna. Valentina era una donna in carriera, una fotografa che viveva in una città metropolitana come Milano, dove si svolgono la maggior parte della sua avventura, che aveva questa dirompente bellezza e questo fascinoso e suggestivo erotismo che spesso sfumava nel sogno, nel surreale. Rosa Fumetto è lusingata dal paragone e non può che accontentare il suo pigmalione che le sta sconvolgendo la vita in modo così travolgente. Taglia i capelli a caschetto e diventa una Valentina in carne ed ossa. Ma quello con Valentina di Crepax non è l'unico accostamento che la riguarda. Ricordo arrivando a Parigi che chi mi diceva, prima di dirmi che ero Valentina di Crepax, ero proprio Poletta. E io sono orgogliosissima di rassomigliare a queste pupe qua, le pupe di Goneschi, le pupe di Crepax, di Plichard, pupette di Plichard. Adesso Rosa Fumetto è pronta per calcare il palcoscenico del Crazy Horse. I suoi capelli sono perfetti, il suo fondoschiena fissazione di Bernardin pure, nonostante una puntura che da piccola gliel'ha deformato in una zona. Buio, poi di colpo luce intensa, si va in scena. Rosa Fumetto è eccitata e sfoga tutta la sua adrenalina in una danza erotica e sfrenata. Il pubblico è in delirio, impazzisce. Bernardin guarda da lontano, orgoglioso, sorride. Quando un cliente gli chiede «E lei chi è?», lui risponde «Rosa Fumetto, la nuova regina». Not if you care for me. Stay, little Valentine. Stay. Each day is Valentine's Day. Siamo alla fine degli anni 60 e il successo di Rosa Fumetto al Crazy Horse è rapido e travolgente. Lei, dispettosa e provocatoria, di giorno è in prima linea sulle barricate delle contestazioni studentesche e la sera si spoglia per gli uomini in delirio. La trascinata alle manifestazioni Eva Vuvor, una passionaria fuggita dalla Spagna franchista che finisce anche lei a spogliarsi per Bernardin. Rosa Fumetto è una diva, un mito, e la gente si accalca all'entrata per vederla esibire. Tutti la vogliono, anche le star. David Bowie, assiduo frequentatore del locale, ne parla così. Non so, io volevo parlarle, toccarla. Era come un sogno irraggiungibile. Ma le ragazze non si possono avere. Sono protette da Bernardin, intoccabili. Sotto il suo controllo passano perfino gli innumerevoli bigliettini degli ammiratori innamorati. Rosa Fumetto sta benissimo, è strapagata e coccolata. Ma piano piano si stanca. I ritmi al Crazy Horse sono duri, bisogna andare in scena tutte le sere, essere sempre splendide, impeccabili. È come stare in un collegio. Bernardin è un istruttore severo che pretende la perfezione. E le ragazze, per essere all'altezza, diventano delle anoressiche, bulimiche, vomitano, si riempiono di diuretici, eccitanti, tipo metredina, per essere sempre al massimo. Rosa parla con Bernardin, vuole una pausa, vuole andare in vacanza qualche giorno, tornare in Italia, trovare amici e parenti. Ma Bernardin non ha intenzione di lasciarsela scappare, nemmeno per un attimo. E non solo perché è una miniera d'oro, anche perché ha alzato il livello delle esibizioni, ha superato quella che sembrava essere la massima perfezione e ha dato un nuovo lustro al Crazy Horse, con un modo di affrontare lo spettacolo del tutto personale e di cui lei è ben consapevole. Mi muovevo sulla scena del Crazy Horse, mi muovevo con una precisione millimetrica sotto le luci. E da qui, quando si parlava dell'importanza più delle spalle che del culo, perché in effetti le spalle, come uno zigomo, è il primo a prendere la luce. che praticamente decide che cos'è l'inquadratura di un corpo. E così Rosa, stufa delle serate che le sembrano tutte uguali e dei ritmi intensi, dopo 3 anni di repliche, decide che l'unica soluzione è farsi cacciare boicottando lo spettacolo. Una volta in scena, comincia a fare cose da scimmia, da clown, grugnisce, si gratta, si mette le dita nel naso. Ma il pubblico, sorprendentemente, gradisce. Forse sente che è questa la vera natura di quella donna divina che riesce a essere erotica anche quando tenta di essere buffa. Bernardin si infuria. Finito il numero, prende Rosa per un braccio e la mette contro il muro. E poi le ordina di rifarlo ogni sera. Rosa Fumetto si arrende. Bernardin e il Crazy Horse non possono più fare a meno di lei, che resta la regina incontrastata per 10 lunghi e avventurosi anni. Però io sono rimasta 10 anni, Crazy Horse. È ovvio che questi 10 anni sempre... unchangé, cioè sempre gli stessi, tutte le serie di fare qualcosa... però sempre con lo stesso tipo di appuntamento, non l'ho mai più ripetuto. Io credo che non sono mai stata neanche in una scuola, in famiglia, tanti anni così. È normale che mi abbia particolarmente marcato anche dopo tutto il tempo di farlo per 360, 3600 volte, no? Non ho mai fatto una cosa per 3600 volte. La vita di Rosa Fumetto, dal momento in cui ha incontrato Alain Bernardin, è stata stravolta, cambiata completamente. È cambiata la sua identità, da Patrizia Novarini a Rosa Fumetto. È cambiato il rapporto con il suo corpo, che l'ha portata a essere da ragazza qualunque a regina dei sogni erotici. Quando torna a casa in Italia, dopo 10 anni passati a Parigi, è un'altra donna. Fa qualche spot, un po' di televisione. Interpreta commedie sexy che vengono presto dimenticate. Ma il Crazy Horse, lentamente, diventa un ricordo. Oggi Patrizia è una signora serena, felice, lontana dalle luci della ribalta. La sola cosa che ancora la lega al Crazy Horse è il mitico caschetto nero, ispirato a Valentina. Ormai oggi non sono più i centimetri di pelle nuda a dare scandalo. È tutto già visto, tutto è meno eccitante. Forse è proprio perché è venuto a mancare il senso del proibito. È un erotismo rozzo, quello di oggi. Forse perché manca della poetica e della classe che Bernardin aveva saputo mettere al Crazy Horse, che peraltro non è più lo stesso. I figli di Bernardin ne hanno fatto un franchising con sedi in tutto il mondo, privandolo del suo gusto che l'aveva reso unico e inimitabile. E Bernardin, che non ha mai mancato uno show nel suo locale parigino, una sera non va. Il suo entourage si insospettisce e una segretaria corre a bussare al suo ufficio. Ma dall'altra parte il silenzio. È il 1994. Bernardin si è appena sparato un colpo di pistola alla tempia. Non ha lasciato alcun biglietto per spiegare il suo gesto. Lo spettacolo, la sera successiva, va comunque in scena come lui avrebbe voluto. Ma non sarà mai più come prima. When were all those dreams we shared those many years ago? What were all those plans we made now left beside the road? Behind us in the road. Destini incrociati. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui. Su Radio 24.